24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. D'accordo, lo ripeto fino alla nausea, 5, 8, 12, 35 con ballottaggio eventuale, altrimenti si fa come il carciofo, prima si toglie la soglia del 35, la si porta al 38, poi si abbassa il 12, lo si porta al 10, poi si abbassa l'8, lo si porta al 7, poi si abbassa il 5, lo si porta al 4, poi si fanno le candidature multiple, sa cosa succede poi? Si torna al porcello. C'è stata rivolta questa frase, le donne del PD sono arrivate qui soltanto perché capaci di fare pompini. Io sono venuto in questa trasmissione che mi piace, ma non per parlare di pompini, insomma. Tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, state mentendo in relazione alla Costituzione, che te lo dico in Ieri una nostra deputata, Loredana Lupo, è stata picchiata da un deputato della dittatura di governo. Che bel clima gioioso, che bel clima gioioso che c'è da un paio di giorni alla Camera, Proprio, sentite che respiro. Cari italiani, è venerdì, vi dico solo questo. Questo è 24 mattino, sono le 6:35 minuti. Sentiamo ancora un po' di Beethoven, va. Dobbiamo un attimo riacquistare un po' di... Carlo Rienzi, non sente un po'? Carlo Rienzi, buongiorno. Sì, buongiorno. Un po' di respiro... beethoveniano, insomma, dobbiamo un po' riequilibrare, no? Come dire. Io sento un po' di pioggia e ho paura di quello che succede in Italia, perché stanotte che ha piovuto fortissimo, vedo qui sul giornale già neve, con il territorio che abbiamo. Ho paura, chissà che cosa frana. Cioè, lei, abbiamo deragliato. Già sono tutti tutti sono concentrati a quello che sta succedendo in Parlamento, ma lei proprio la pioggia. No, il Parlamento, ma chi mi frega? E sono anni che fanno le risse, ma voi ci sembra proprio che vi svegliate la mattina. Beh, ma insomma, alle 5, così insomma è una cosa un po' esagerata, forse no. Io ne ho viste tante nella mia vita, ma tante, da parte di tutti i partiti. Ne ho viste sempre tante. Lo stesso modo, volgare, proprio uno spettacolo indegno. Mentre loro fanno le risse, l'Italia crolla, il treno deragliato ha bloccato per fare 10 km da un punto all'altro della ferrovia sul Tirreno, ci vogliono 3 ore. Oh, queste sono le cose Questi sono i problemi. Gliene frega niente a nessuno. Insomma, no, adesso un po' gliene frega. Comunque, vogliamo aprire il Parlamento? Saluto Miriam Lucchetti in redazione e il nostro Carmelo Lauricella. Il caffè volentieri a tutti quanti. In regia, anche a lui il caffè di Nicole Minetti. È rimasto con noi questa settimana, Carmelo, e dice, mo me la telo, dalla prossima subito vi abbandono. Voglio salutare anche Alessandro Giglioli, eccolo qui, dell'Espresso. Buongiorno. Buongiorno, buon mattino. Insomma, in questo clima italiano piovono rane, e Rienzi dice che piovono rane, è il blog seguitissimo di Giglioli, ma piove anche pioggia, piove anche acqua, piovono insulti, piove tutto. Carlo Rienzi ci ha detto, lui del Codacons, che ma sono altre le cose importanti. Giglioli, che dobbiamo fare? Hai sentito all'inizio questo bel collage di una parte di quello che è successo? Peccato un po' ieri in rete, oggi l'avrei fatto. Sono altre, indubbiamente, sono anche queste, non è che una roba esclude quell'altra. Sì. La democrazia rappresentativa ha la sua importanza, anche per l'impatto che poi ha nella vita quotidiana di cui parla Rienzi. Insomma, quindi le due cose sono legate, no? Ma veramente, nel bene e nel male. Qualsiasi Parlamento ci sia stato finora, nessuno si è preoccupato di mettere in sicurezza il territorio del nostro paese. No, ma questo certamente, ma certamente questo è un problema, però oggi Rienzi, i giornali titolano tutti su questo. Oh, sta succedendo un po', sono due giorni che sta succedendo un po' un casino lì in Parlamento, o no? Forse i parenti dei morti sotto le frane dovrebbero fare le stesse risse, forse i giornali ne parlerebbero. Vabbè. Anche no, non la provo, quello che Rienzi poi e poi dopo. Comunque il quasi omonimo Renzi in un retroscena della Stampa ha detto, e caro Giglioli è l'unico che ce l'ha, la Stampa, han perso la testa, sono squadristi da codice penale, ce l'ha con quelli del Movimento 5 Stelle. Ora adesso io devo dire, trovare un editoriale, un commento a favore di quello che stanno facendo quelli del Movimento 5 Stelle, bisogna andare a cercarlo, no, non esiste, finora non l'ho visto sui giornali. Tu Giglioli che ne pensi? Vuoi spezzare una lancia per loro? No, spezzare una lancia mi sembra un po', come dire, un po' eccentrico. Però vorrei, come dire, magari non fare il tifoso, ecco, questo sì, nel senso che quello che si cerca di vedere le cose con freddezza, quello che si sta delineando è un tentativo di, secondo me, di arrivare a una, anche per via di questa elettorale, a un, non dico un bipolarismo, ma insomma a una polarizzazione dei consensi da una parte verso, come dire, la politica che sta facendo Renzi, dall'altra parte verso Grillo e il suo movimento. Cioè anche ieri alcune simulazioni hanno fatto notare come si potrebbe arrivare in realtà non a un ballottaggio Berlusconi-Renzi, ma a un ballottaggio Renzi-Grillo. Al netto di queste ipotesi, di questi scenari, è vero che Grillo vede oggi Renzi come il nemico numero uno. Il principale avversario. Io ho visto anche dei sondaggi sull'elettorato del Movimento 5 Stelle, non lo pubblichiamo sull'Espresso oggi. L'elettorato del 5 Stelle è incuriosito da Renzi, non dico che è renziano, per carità. Certo. Però sicuramente, mentre l'avversario di prima, cioè il vecchio establishment del PD, per capirci, parlava una lingua talmente del secolo scorso che era facile per Grillo infilare il coltello nel burro, sì. Adesso invece c'è un signore che parla un linguaggio che è simile a loro. Ma infatti, l'analisi sulla Stampa è proprio questa, cioè secondo la Stampa è quello che dici tu, cioè Renzi e Grillo si considerano reciprocamente ma il nemico politico numero uno, cioè l'ostacolo. Ho dato l'analisi gratis senza neanche spendere i soldi per la Stampa. Vabbè, fortunatamente non lo spendo neanche la Stampa perché me la compra la radio. però effettivamente così adesso nessuno comprerà la Stampa e nessuno ascolterà Giglioli. No. Cioè il concetto è questo. Dice Renzi, siccome adesso la politica sta dando delle risposte, e non sottointeso con me, tra parentesi, allora adesso Grillo alza la posta, così ci deve sfasciare un po' tutto. Vabbè, Carlo Renzi vuole dire su questo qualcosa oppure no? Perché non vi chiedete come mai il consenso va a Grillo e Renzi? Perché dicono cose diverse, tutti e due. Non è tanto il contenuto di quello che dicono, cercate di capire, perché la gente si è stufata di una classe politica che ruba, che ruba, che ruba, rubano dappertutto. Adesso pure il presidente dell'INPS, che uno pensa all'INPS come quella cosa che aiuta i vecchi, no? Cioè, non passa un giorno che non esca uno, purtroppo non perché lo Stato sa controllarsi e far emergere gli scandali, ma perché ci sono i magistrati, purtroppo, dico perché poi non parliamo del governo dei magistrati che è la iattura peggiore, ma ecco, questi due dicono cose diverse, probabilmente ingannano, perché anche Grillo prima delle elezioni dice delle cose e poi dopo ne ha fatte delle altre. Adesso dice tante cose belle, non so che cosa farà. Cioè, gli unici che dicono due cose diverse ingannano anche loro, secondo me. Tutti allora, è una razza di fregatura totale. Però se vengono seguiti perché finalmente sembrano diversi, se dicono cose diverse. vogliono togliere i contributi pubblici, restituiscono un po' di soldi allo Stato, cioè quelle cose che la gente non sopporta più e quindi li ama per questo, quindi loro sono quelli che sono i più graditi. Punto. E fanno la guerra per avere più voti, evidentemente, sia gli uni che gli altri. Io vorrei, ma è chiaro, Giglioli, visto che sei un grande esperto, anche utilizzi la rete, sei sempre si fa notare che sui social soprattutto c'è, per esempio, sempre La Stampa, ma anche altri giornali, c'è un ulteriore, come dire, alzare l'asticella dello scontro. Ecco, c'è il rischio che magari utilizzando i social network, utilizzando la rete, venga alimentata anche questa tensione che già poi si è visto in Parlamento, è sfociata anche in schiaffoni, Ma non so cosa intendi per alimentare la tensione. Ad esempio, scrivono, c'è chi dice, hanno intercettato qualcuno che dice sarà rivolta all'interno anche di persone che gravitano, no, nel Parlamento, a livello istituzionale. Però questo, prego, come dire, di non cadere nella solita fineddoche per cui, siccome in rete tutti parlano, come parliamo al bar, come parliamo in tram. Se sentiamo qualcuno in tram dire basta, non ne posso più, non ne facciamo un caso. Se lo sentiamo in rete, ne facciamo un caso. Perché quello che sta succedendo, secondo me, è che c'è una scarsa comprensione del fatto, e non lo dico, cerco di dirlo in modo meno partigiano possibile, del fatto che il lavoro che sta facendo Renzi è sicuramente rapido, veloce, no? Piace per il decisionismo molta gente, però provoca anche una polarizzazione in senso opposto, che stiamo andando verso io non sono assolutamente preoccupato, per rispondere alla tua domanda su quello che dici tu, perché il Movimento 5 Stelle è un movimento in realtà fortemente pacifista, oggi può sembrare strano, insulti, no? Le cronache. No, ma come al solito, il rischio in questi casi è di aizzare altri animi, cioè magari meno pacifisti, non che. Ma guarda che quello che è successo agli anni, quando c'è uno scontro, come dire, politico così forte, secondo me non è insano che ci sia un confronto, poi per carità, mani belle, ferme tutti quanti. Però io credo che, contrariamente a quello, se posso rispondere alla tua domanda in modo diretto, contrariamente a quello che si pensa oggi, io credo che il successo abbia avvantaggiato il Movimento 5 Stelle. Avvantaggiato per due motivi. Molto velocemente. Primo, perché questa legge elettorale ha di fatto escluso tutte le minoranze sotto l'8% che andranno a confluire in buona parte nel Movimento 5 Stelle. Le minoranze, dico, non quelle di centro, quelle di sinistra, quelle di vario tipo, che andranno a confluire in buona parte del Movimento 5 Stelle, che potrebbe fare il pieno. Secondo, perché effettivamente è una legge elettorale molto molto brutta, con i toccati, con Salvalega, con le candidature multiple, con la fase del Parlamento quindi per te giorno del regalo alle banche e l'effetto, se vogliamo parlare di effetto conflittuale, credo che nasca anche un po' da lì. No, certo, quindi per te favorisce. Tra l'altro sei entrato forse in una cantina, ti sentiamo un po' lontano. Ah, ma adesso posso subito. No, adesso magari miglioriamo l'audio. 24 mattino. Ehi Milan, cosa ne dici del nostro Marchionne, che se n'è andato in Olanda con la regione sociale e in Inghilterra paga le tasse, dopo che noi italiani per 40 anni abbiamo fatto tutto quello che voleva la Fiat e pagato un mare di soldi. Una grande persona, una grande ditta. Invito tutti gli italiani a non comprare neanche una Fiat. Marchionne fa veramente schifo. A proposito di il canone si deve, il canone si vede. La RAI vede benissimo chi non paga il canone. Ogni famiglia italiana o straniera ha come minimo da uno a tre televisori in casa. Quando aspettate ad oscurarli, a toglierle l'audio, a mandarle qualche disturbo in modo che tutti correrebbero a pagare? Perché continuiamo a chiamare onorevoli i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato? Onorevole è una persona d'onore, questi non lo sono. Sono arrabbiato con l'Inter, sono arrabbiato con la nuova Inter, però da interista resisto. E questo è un messaggio e un abbraccio per Mauro Meazza. un Twitter per la Boldrini. Caro signore Milan, ci hanno fregato un'altra volta, eh? Hanno tagliato l'arbero dalla Banca d'Italia per mangiarsi le cerase. E poi è bello che le cerase se le sono mangiate le banche. Qui ci mi ha spiegato un Severino, eh? A dire la verità non ci ho capito granché, ma quando ieri sera Formiconi, che lo possino per via fuoco, ci ha spiegato che non era vero, allora sono stato convinto che ci hanno fregato sul serio. Che li possino via fuoco tutti. Ciao Milan. Questo è il vecchio Angelino, il nostro contadino Carlo Rienzi. Allora, ho letto qui una notizia sulla stampa: una gru in mare per rimuovere l'Intercity. E che c'è da ridere? Cioè, lo devono togliere, insomma, ci vorranno 60 giorni e 2 milioni di euro. 2 milioni di euro per... devono spostarlo, che fa? Sennò... Quello lì... Mi pare che per spostare l'Intercity la potevano mandare il giorno dopo, sta gru. Ci vuole. Io non capisco. Cioè, un paese civile che blocca la linea ferroviaria perché un treno deraglia e non è in grado per tantissimi giorni di ripristinare la linea o di costruire, se fossero stati in Cina avrebbero costruito una linea a fianco in cinque giorni. Certo, sì. Noi invece stiamo pensando a chi ci deve guadagnare, probabilmente chi deve pagare, chi deve cacciare i soldi per la gru, chi deve cacciare, e intanto la gente si mette lì tranquilla a subire, a ingoiare i rospi. Il nostro motto è non ingoiare il rospo. Abbiamo fatto una denuncia anche per questo. Ma denuncia a chi? Di pubblico servizio contro ignoti. Qualcuno deve pagare, le responsabilità ci devono essere per questo fatto. No? Ma voi chiedete sempre che qualcuno paghi, ma poi qua già dobbiamo pagare 2 milioni di euro per tirare giù questi Intercity, perché sennò... Ho capito, qualcuno deve pagare il fatto che si fa dopo tanto tempo, tutti questi disagi. Ma perché il cittadino deve sempre subire disagi? Perché? Perché non si è capaci? C'è un dipartimento dell'emergenza nella Presidenza del Consiglio, la Protezione Civile, e le frane sono competenze della Protezione Civile, nessuno si prende responsabilità, ognuno dice ma non compete a me, adesso compete a Trenitalia, no compete alla Regione, no compete a chi ha fatto crollare la strada. Guarda, è uno scaricabarile continuo, è uno schifo, non solo diciamo, in quello, me lo dica proprio la napoletana, è uno schifo, è una schifezza. e poi meravigliate la gente va dietro a Grillo e a Renzi, è proprio forza. Giglioli, qui insomma, ma ci dicono, ma l'ha detto già Rienzi all'inizio, avvisate che a Roma sta scendendo copiosa da stanotte l'acqua, verificate le strade. E ho capito, lo sapranno, no? Giglioli, come va a te dalle tue parti a Roma? Paura, una gran paura che tutto si blocchi qua. Anzi, io ti suggerirei oggi di non mandare neanche il traffico. C'è traffico. L'abbiamo già mandato. A Roma tutto bloccato. Passiamo avanti. Lo puoi fare così in un secondo. Ma non è solo la pioggia. Sì. Devi sapere che nella mia strada, che non dico qual è perché sennò gli reagivo, sono 6 giorni che tutti i giorni noi fotografiamo, è una specie di discarica e c'è una bottiglia buttata proprio in mezzo alla strada che nessuno raccoglie. Vorrei sapere com'è possibile. E la raccoglie. In 6 giorni non è passato lo spazzino in questa strada. Ma faccia questa azione, la raccolga lei e filmi tutto e poi mandiamo al marino. No, io ogni giorno continuo a fotografare, voglio vedere quanti giorni rimane questa bottiglia. Io ho dei buchi qua a Roma che secondo me ormai sono patrimonio. Vabbè, dell'UNESCO, ma siete veramente messi. Dell'UNESCO, roba che c'è lì da anni. Siete messi malissimo. Ma siete messi malissimo. La capitale, l'urbe, i romani. Ma insomma. Vabbè, io ho un minuto qui per chiudere, caro Giglioli. Non ti faccio fare considerazioni, ma continua la Mandrilleide d'Abruzzo. Ti appassiona questa cosa? Sai, oggi il fatto che intervista per Rocco Siffredi per parlare della mamma mia, la Mandrilleide. Guarda, ci sono nella mia storica esperienza. Sì. Ormai c'ho un'età di giornalista, cioè, ci sono due cose che fanno incazzare gli italiani quando c'è la politica, che non sono semplicemente le mazzette, sono quando magnano e quando trombano, no? Cioè a spese nostre. È chiaro, queste sono le due cose che io mi ricordo quando facevo il sito dell'Espresso, ogni volta che c'era la quantità di commenti che arrivavano è chiaro, perché dicono cioè, devi pure magnare e trombare a spese mie, e devo dire che sono due attività che almeno stando a leggere i giornali, cioè il ristorante

siccome Grillo vede che qualche riforma si sta muovendo, che Berlusconi e Renzi hanno fatto un accordo, che qualcosa si muove, allora cresce il nervosismo e bisogna, come dire, alzare i toni della protesta. Di questo parliamo e lo facciamo con gli ospiti. Devo dire, e faccio subito una premessa, dovevamo avere anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Riccardo Nuti, che però nella notte ci ha mandato un messaggio dicendo che sta poco bene. Stiamo cercando di recuperare un esponente del Movimento 5 Stelle, non è facile saperlo all'ultimo momento, quindi non c'è per questo, ecco, nessuna mistificazione, nessun ostracismo, come ben sapete. Ci sono però per il momento la deputata del PD Maria Stella Bianchi. Onorevole, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Saluto poi il Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Buongiorno Breda e benvenuto, eccoci qua. Buona giornata. Perché in tutto questo io ho dimenticato anche di mettere un'altra questione, quella dell'impeachment. Intanto chiamo ovviamente il numero verde per gli ascoltatori, 800 24 0024, se volete telefonare. A questo punto, in attesa di capire se troviamo un esponente del Movimento 5 Stelle, simpatizzanti di Grillo, chiamateci, insomma, vi daremo la precedenza delle telefonate. Allora, Marzio Breda, ho dimenticato anche la questione, dimenticato, cioè ci arrivo adesso, dell'impeachment. Ieri il Movimento 5 Stelle ha proposto questo impeachment nei confronti di Napolitano, che mi pare, ho letto dagli articoli, almeno del Corriere, ha reagito sibilando un faccia al suo corso. Che vuol dire questa reazione del Presidente della Repubblica, Marzio? Sì, era un modo di ostentare, diciamo, fiducia, tranquillità, quasi noncuranza, diciamo. Del resto Napolitano su questa questione è da qualche mese che la valuta, perché il Movimento 5 Stelle l'aveva annunciata almeno da ottobre, e tra l'altro l'aveva annunciata, vale la pena di ricordare, che Grillo, appunto, proprio a ottobre ne aveva parlato, proprio lui, come una invenzione politica per far capire da quale parte stiamo, vale a dire, l'aveva annunciata con la consapevolezza che non portava da nessuna parte, cioè questi punti di presunti attentati alla Costituzione, sono sei punti indicati nella denuncia, diciamo, del 5 Stelle, sono inesistenti, cioè dal punto di vista costituzionale quella faccenda non sta in piedi, lo sanno anche loro, e appunto Grillo stesso lo aveva ammesso, lo aveva riconosciuto. Sì. In una intervista ai primi. Ma poi non ci sono i numeri, credo, quindi è un'iniziativa che non avrà corso dal punto di vista. Sì, esatto, però questa cosa produrrà un effetto, e l'effetto è questo, cioè per qualche tempo, per qualche settimana, e Dio non voglia, forse per qualche mese, questa questione sarà all'ordine del giorno della politica e dei mass media, se ne parlerà, ci saranno i riflettori accesi su questo, e è inevitabile che questo rischi di produrre una serpeggiante delegittimazione, sì, dell'istituzione quirinale, cioè del Presidente. Questo è appunto il solo fatto di evocarla, di parlarne, di metterla all'ordine del giorno, è una cosa che ferisce, indebolisce l'istituzione suprema di garanzia di questo paese, questo è il punto. Va bene, e appunto arrivano già i messaggi, noi giornalisti siamo i portaborse mentre l'uomo della strada sta coi 5 Stelle, ecco, queste sono le frasi e gli sms che uno è arrivato appunto poco fa. Allora, onorevole Bianchi, lei è stata ieri per esempio criticata da Vittorio Feltri nell'editoriale del giornale, che forse avrà letto, lei è l'onorevole che dopo l'insulto del deputato del Movimento 5 Stelle Sorial, che ha dato del boia a Napolitano, ha proceduto a segnalare tutto ciò alla Procura della Repubblica ed è stato aperto un fascicolo per vilipendio nei confronti del Capo dello Stato, nei confronti del... diciamo che Feltri ha detto, certo, screanzato Sorial, ma è basito per l'iniziativa di una deputata che, come dire, si prende la briga di segnalare tutto ciò alla Procura della Repubblica. Perché l'ha fatto? Ma guardi, non è una questione di maleducazione, che pure sarebbe sempre utile avere, soprattutto da parte di chi rappresenta i cittadini e in qualche modo anche tutti i cittadini italiani una volta che è eletto deputato in Parlamento. È una questione di rispetto delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale. Attaccare non la persona che ricopre in quel momento il ruolo di Presidente della Repubblica, ma attaccare il Presidente della Repubblica significa attaccare l'intero Paese, significa attaccare tutti i cittadini che il Presidente rappresenta. E non a caso c'è ancora nel Codice Penale l'articolo 278 che è proprio l'articolo che disciplina la possibilità di che disciplina la fattispecie di oltraggio al Presidente della Repubblica, e c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 74 che ne riconosce di nuovo la legittimità e la validità. Io mi sono mossa per questo motivo. Noi pensiamo, l'ho ripetuto ieri molto bene il nostro presidente del gruppo parlamentare Roberto Speranza, che attaccare il presidente napoletano significa attaccare tutte le istituzioni, e per noi, per il Partito Democratico, questo è semplicemente inaccettabile. Non va bene. Vabbè, e questo sull'impeachment vedremo. No, ma l'idea era anche perché si è presa la briga proprio di segnalarlo. Sa che c'è anche un grande dibattito se sia ancora attuale il reato di vilipendio nei confronti delle istituzioni. Ma guardi, io penso che c'è una cosa che è terribilmente attuale in questo paese, cioè, anzi, due cose forse. Il primo è che ci deve essere un limite. Deve esserci un limite a ciò che noi facciamo e diciamo contro le istituzioni. Se vuole risponda a questo, cioè il fatto che le parole devono tornare ad avere la loro importanza, tanto più se a pronunciarle è un deputato della Repubblica. A proposito di parole, lei ha assistito, visto, ci faccia la cronaca, visto che ognuno dice la sua, del delirio che è successo ieri o che sta succedendo da 48 ore all'interno della Camera. Ha assistito a qualche scena per la quale ci può raccontare? Io ho visto delle scene molto spiacevoli, credo abbiate tutti visto le immagini della occupazione dei banchi del governo, di deputati che sono saliti in piedi sui loro scranni dopo l'approvazione del decreto. Visto anche, però, ieri avevamo l'onorevole D'Ambruoso che è venuto qui, abbiamo visto anche questa scena della manata. Guardi, e il Movimento 5 Stelle dice hanno picchiato una donna, hanno alzato le mani. L'onorevole D'Ambruoso si è scusato e naturalmente questi sono gesti che non devono succedere. Le posso assicurare che in quel momento in aula c'era un clima di tensione e una sensazione di violenza che davvero non deve esserci mai in quel luogo, che è un luogo sacro perché è la casa della democrazia del nostro paese. E non sono scene che veramente ci auguriamo tutti di non dover mai più rivedere. Ho visto delle cose che ovviamente le telecamere non hanno visto perché sono avvenute in luoghi. Ci può dire qualcosa? La commissione affari istituzionali nella nottata, il tavolo di presidenza è stato occupato da deputati del Movimento 5 Stelle che hanno ritenuto opportuno che la commissione non si riunisse. Lo stesso hanno fatto in commissione giustizia, dove io però non sono andata, io ero andata invece a seguire i lavori della prima, quindi ho trovato il tavolo di presidenza occupato e i lavori impossibilitati e la commissione riconvocata per il giorno successivo per l'occupazione da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle. Il mattino successivo i deputati del Movimento 5 Stelle hanno invece cercato di non far uscire deputati dall'aula dopo che si era svolta la votazione. In particolare ho il racconto diretto, questo non l'ho visto purtroppo, ho il racconto diretto del nostro capogruppo in commissione Emanuele Fiano, al quale hanno tentato di impedire l'uscita dall'aula della commissione. Una cosa che ho visto io, mi ci sono ritrovata casualmente, è stato non tanto la prima aggressione quanto l'occupazione della sala stampa della Camera. Il nostro presidente Roberto Speranza era lì, quella abbiamo visto, ci sono le immagini. Oltre alle immagini successive che ho visto anch'io, mi sono ritrovata poi a vedere con i miei occhi, a sentire l'onorevole Alessandro Di Battista vantarsi dell'occupazione davanti alla sala stampa della Camera dicendo avete parlato per 20 anni, ora parliamo noi. Ma ci sono, cioè, credo possiamo far sentire anche l'audio, è stato ripreso di questa vicenda, no? Di questo faccia a faccia Di Battista Speranza. Guardi, io, a parte tutti questi episodi, a me confermano una sensazione di profonda amarezza e di grande preoccupazione. Oggi vedo che il segretario del nostro partito Matteo Renzi in un'intervista alla stampa parla di roba da squadristi. Questa è un po' purtroppo la sensazione che abbiamo noi. Vedo in altri titoli che si parla di strategia del caos. Io vorrei dire solo una cosa, che di fronte a tutti questi atteggiamenti che sono intimidatori, a questo polverone che vuole essere alzato, noi cercheremo sempre di riportare l'attenzione al merito delle questioni. Sì, esatto, la questione del merito però è stata un po' abbandonata. Marzio Breda, vorrei chiedere questo. Napolitano, cosa pensa del reato di vilipendio? Ha semmai espresso anche sulla opportunità che esista ancora questo reato, che essendo un reato di opinione per qualcuno è un po' datato? Sì, mi pare che in passato, nel precedente settennato, il Presidente ha appunto fatto un paio di volte un cenno a questa cosa, cioè dicendo che, come dire, sollecitando quasi a non procedere le procure, però qui è, come dire, queste sono iniziative che fanno capo a qualsiasi cittadino che può presentare una denuncia, a quel punto la procura o anche l'autorità per autonomamente, una procura è titolata a intervenire, che poi si possa dire, ragionare sul fatto che si tratti di un cascame, diciamo, delle vecchie monarchie, sì, sia anacronistico, appunto, quando, anche perché magari appunto ha a che fare con le opinioni, con il libero esercizio delle opinioni, questo è altrettanto vero, ma qui sta al Parlamento affrontare la questione. E certo, si è parlato nei mesi scorsi e anche si è scritto molto su questa questione, come di una specie di ipersensibilità di Napolitano, di una permalosità eccessiva, come dire, che non accetta le critiche. Napolitano sa bene che quanto più si espone, diciamo, politicamente, è chiaro che il ruolo del capo dello Stato da così in avanti è via via progressivamente cresciuto in interventismo, un interventismo necessitato da questa paralisi italiana che viviamo da 20 anni in concludenza, è chiaro che si espone a critiche, lo sa benissimo. E dopodiché c'è critica e critica, appunto. No, ma questo è chiaro. Allora andiamo in pubblicità, riprendiamo tra qualche minuto. Ripeto, 800 24 00 24, simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, chiamateci e vi do la parola tra poco. 24 mattino. Eccoci qui, stiamo cercando di raccontare quello che sta succedendo da 2 giorni al Parlamento. Siamo con Marzio Breda, giornalista quirinalista del Corriere della Sera. Siamo con l'onorevole Maria Stella Bianchi del PD. E che è successo? Beh, sono volate parole grosse, appunto, per esempio l'onorevole Di Battista a Speranza del PD. Gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani. Non sei degno di dire quello che vogliono. Non sei degno di dire una cosa. Questo qui, gli italiani hanno fame, questa gente fa gli accordi assieme a Berlusconi ai condannati e grida fascista a me. Vabbè, insomma, il clima era questo. Ripeto, sono volate anche accuse sessiste, la famosa battuta ormai diventata celebre con le accuse di alcuni esponenti del PD, che dice un esponente del Movimento 5 Stelle ha detto: qui siete qui solamente perché fate pompini, e mi scuso per la parola, ma questa è stata ormai ripetuta. L'onorevole De Rosa del Movimento 5 Stelle ha detto: chiedo scusa della battuta, ma in realtà mi riferivo in generale, non ce l'avevo con le donne che avevo di fronte, ma con lo strumento utilizzato spesso per arrivare in Parlamento. Insomma, non è che questo possa derubricare a meno grave la battuta, però loro mi stavano dando del fascista, e questo succede. Allora, Giovanni dalla provincia di Caserta, buongiorno, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, ringrazio intanto per lo spazio. Dica. No, vabbè, prima di esprimere quello che penso, volevo intanto fare una domanda al vostro collega Folli, no? Che stamattina ho sentito un po' che forse si era appena svegliato, diceva che il sondaggio... ma non c'è Folli, come fa a rispondere alle Folli se non c'è? Diceva che il Movimento 5 Stelle, diciamo, era in calo, io non so quale, forse si era appena svegliato, l'ho sentito un po' con la voce, un po' così, forse stava ancora col caffè. Quindi volevo dire un attimo che tipo di lo so, però Giovanni, facendo, come faccio a farle rispondere da Stefano Folli che no, non c'è? Vabbè, dopo, faccio, magari voleva sulla, fare sulla, diciamo, questa pagina Facebook di Radio 24, io la faccio. Va bene. Ma poi io volevo dire una cosa, noi italiani siamo un popolo di caproni, questa è la vera opposizione che noi dobbiamo vivere, se andiamo in uno stato normale, e questa è l'opposizione. Vedete in Ucraina che cosa sta succedendo, le persone stanno scendendo in piazza perché praticamente l'opposizione vuole entrare in Europa, perché l'Europa per loro è un mondo da scoprire. E che c'entra l'Italia con l'Ucraina? E questa è la vera opposizione che si fa in uno stato normale, quindi i grillini fanno bene ad andare avanti così, perché finalmente noi italiani normali, io non sono un attivista, sono una persona che ha 40 anni, da giugno, e ho votato 2 volte nella mia vita, una volta quando avevo 21 anni a quel delinquente di Berlusconi, e la seconda volta ho votato ultimamente Bersani, perché ho detto vabbè, la riforma è Bersani. Ma mi faccia capire perché non ho mai più votato, perché adesso se... voterò, sì, Giovanni, ho votato a febbraio al Movimento 5 Stelle. Giovanni, mi faccia capire sempre, ho capito, ma si calmi, mi faccia capire perché secondo lei fanno bene a fare l'opposizione così. Ma questa è l'opposizione che bisogna fare, ma è questa, tu, cioè, ma questa quale, nel senso, i occupare, salire sugli scranni, è questa? No, vabbè. Ma scusatemi, ma quando in un decreto legge che deve valere, diciamo, sì, per essere, diciamo, utilizzato per necessità ed urgenza, tu metti Banca Italia, IMU, tutto quanto insieme, sì, e poi come ieri sera diceva il vostro collega diciamo ben risoni. È chiaro, questo è un regalo alle banche, lo dicono tutti quanti gli universitari, professore, è inutile che gli italiani, diciamo, si scandalizzino. È chiaro che ognuno di noi, di fronte a queste notizie, reagisce, diciamo, lei dice trova legittima una reazione del genere. Va bene, grazie Giovanni. Andrea a Verona, o meglio in provincia, da Andrea. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io chiamavo perché io ho votato il Movimento 5 Stelle per la prima volta, l'ultima volta che si è andati a votare. E mi sembra, è vero che hanno esagerato, però è anche altrettanto vero che sarebbe da chiedersi se è più violento quello che hanno fatto gli esponenti del Movimento 5 Stelle o quello a cui ci hanno sottoposto i politici finora. Se noi, e questo non è qualunquismo, attenzione, se noi guardiamo le statistiche, qualsiasi, la scuola, l'economia, eccetera, in Europa siamo sempre, se non gli ultimi, tra gli ultimi. Continuiamo così? Quindi io lei dice la reazione è il frutto di 20 anni di mala gestione della politica per la quale si produce questo tipo di reazione. Grazie Andrea. Gianfranco da Torino, buongiorno. Gianfranco. Salute, grazie. Due cose veloci. Una, io m'assiderei l'esponente lì del PD, anch'io prima votavo PD, poi mi sono lavato e sono guarito. Ma di andare in piazza e soprattutto quando c'erano i forconi e di prendere la decisione di dare 7 miliardi e mezzo alle banche. Poi vediamo se il popolo si fosse limitato soltanto ad occupare i banchi del Parlamento. Sì. E per quanto riguarda invece l'impeachment a Napolitano, sicuramente non sarà votato, però la cosa importante è che si sappia in Europa che abbiamo un presidente che ha fatto bruciare delle intercettazioni, che gioca con una sola parte dello schieramento politico, che è un saluto a Giovanni e al ragazzo di Verona. Va bene, grazie. Buongiorno. Gianfranco. Marzio Breda, ecco, tu hai ripartito dicendo comunque vada a finire un rischio di delegittimazione del ruolo istituzionale di Giorgio Napolitano, c'è già con la richiesta di impeachment. Dice l'ascoltatore ultimo, l'importante è che si sappia, far sapere, anche se non passerà, le intercettazioni, la trattativa Stato Mafia, insomma quello che Napolitano sta facendo. È questo il rischio a cui ti riferivi prima? Beh, sì, infatti come vediamo, come abbiamo appena ascoltato anche da queste telefonate, ci sono certi messaggi che comunque passano. Voglio dire, sulla questione della trattativa Stato Mafia, le telefonate, a Napolitano, a dar ragione a Napolitano, è stata la Corte Costituzionale, non un altro organismo. È chiaro, cioè il giudice delle leggi, il giudice che deve, come dire, assicurare la coerenza. Da questo discorso non se ne esce, perché parte dei giudici fanno notare, sono eletti dal capo della Repubblica, sì, e quindi questo alimenta questo circolo. Però quando l'ascoltatore poco fa dice è giusto far conoscere all'estero cosa fa o cosa ha fatto il presidente, bisognerebbe anche ricordare che Napolitano all'estero è percepito, considerato come l'unica autorità morale che questo paese ha. Leader morale lo ha definito proprio Obama. E allora anche Obama, insomma, voglio dire, sono cose che non stanno in piedi, che però sono perfettamente coerenti con gli slogan lanciati proprio in questi giorni del Movimento 5 Stelle, che dicono noi siamo i talebani della democrazia, basta con il rispetto delle regole, siamo i nuovi partigiani. C'è una specie di offensiva a tutto campo contro tutti, in Parlamento, contro il capo dello Stato, contro tutti, per cui rischiano di passare veramente dei messaggi sbagliati. Per esempio, quando si dice questa legge regala, ma non si dice così, in modo sconsiderato e senza pezze d'appoggio, diciamo così, regala tot miliardi alle banche, la gente che peraltro è in difficoltà, questo è un paese effettivamente in sofferenza, allora pensa che chissà quale porcheria si sta tramando. No, diciamo che oggi per esempio il Secolo XIX torna su questa vicenda raccontando come attraverso le plusvalenze, sicuramente per la ricapitalizzazione di Banca Italia, i due dei soci di Banca Italia come Intesa e Unicredit con la rivalutazione incasseranno plusvalenze tra gli 1,8 e 2,8 miliardi di euro, ma sarà Banca Italia acquisire temporaneamente le quote di eccedenza per poi rimetterle sul mercato. Però è questo il meccanismo che viene definito come regalo regalo alle banche, anche al Movimento 5 Stelle. Subito dopo il traffico ripartirò dall'onorevole Bianchi a capire insomma se è più della linea, ha citato già lei Renzi, che sulla stampa oggi dice è chiaramente Grillo in difficoltà, che quindi sta aumentando e alzando l'asticella dello scontro, e che cosa però si profila, perché anche a febbraio ci sono dei decreti in scadenza, decreti importanti. 24 mattino. Siamo testimoni ogni giorno del dissennato programma, e ora temiamo, viste anche le motivazioni che abbiamo dato per procedere con la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica Napolitano, di far capire ai cittadini che qui ci stanno rubando la democrazia. Ci stanno rubando la democrazia, era la senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Allora, onorevole Bianchi, qui il clima è questo che si respira. Non so cosa possa succedere da lunedì perché possa tornare un clima istituzionale più normale. Io direi cosa possa succedere da oggi. Noi alle 9.30 votiamo le pregiudiziali di incostituzionalità e abbiamo poi sulla legge elettorale, abbiamo poi l'esame del decreto Terra dei Fuochi, e sapremo se siamo convocati anche nel sabato e domenica per fare le votazioni necessarie. Io mi limito a ricordare questo: articolo 90 della Costituzione, il Presidente può essere messo in stato di accusa per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Nei sei punti che sono citati nell'impeachment, che io consiglierei veramente a tutti di leggere, ci sono delle cose che sono ai limiti della presa in giro degli italiani, e sono veramente semplicemente un modo per fare girare questa voce. Addirittura il Presidente sarebbe messo in stato di accusa perché ha consentito l'uso di decreti legge stabiliti come previsto dall'articolo 77, messo in stato di accusa perché si è speso per cercare di promuovere le riforme e la riforma istituzionale, le riforme istituzionali, perché non ha esercitato il suo rinvio alle Camere delle leggi quando appunto l'articolo 74 prevede la possibilità dell'esercizio, ma evidentemente non l'obbligo. Vorrebbero che il Presidente facesse ciò che invece è assegnato alla Corte Costituzionale. No, ma è chiaro che non sono non... delle cose totalmente ma no, ma è chiaro che dal punto veramente... di vista non reggono, però, ma lo allora, sanno benissimo che non reggono. Ecco, lo sanno benissimo. Allora noi come Partito Democratico, e spero tutti i cittadini italiani, e sono certa che tutti i mezzi di informazione faranno ciò che è opportuno, cerchiamo di stare al merito delle questioni, e davvero noi cominciamo da oggi, anzi abbiamo cominciato ieri, purtroppo in assenza di deputati del Movimento 5 Stelle che hanno ritenuto di non partecipare alla discussione generale sulla legge elettorale, che naturalmente proseguirà nei prossimi giorni. Abbiamo iniziato da ieri a incardinare in aula finalmente la riforma della legge elettorale, che è la prima delle riforme che noi vogliamo portare avanti e concludere il più rapidamente possibile: abolizione delle province e riforma complessiva del titolo quinto, risistemazione del nostro... E questo insomma è il procedimento che ha fatto dire oggi a Renzi, siccome si sentono in difficoltà, perché si muove un po' lentamente per carità, ma per 20 anni non si è mosso nulla, siccome si muove questo allora attaccano. Mi lasci dare ancora due ascoltatori. Sandro da Milano. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare solo una puntualizzazione. Sì. Volevo dire che noi italiani siamo un popolo strano e disinformato. E come si fa a buttare fango su Grillo e non vedere i 2.100 miliardi di debito pubblico creato dai vecchi partiti? Cioè, voglio dire che proprio ci vogliamo fare del male, tutto qua, insomma. Ecco. No, vabbè, guardi che la critica agli 20 anni, e se vuole anche di più, di politica, penso che ne ha lette, no? Di critica alla classe politica, dell'inazione, della creazione del debito pubblico, del fatto che non si sono fatte le riforme. Non ha mai letto e non ha mai sentito queste critiche da questi microfoni? No, ma probabilmente non capiamo, perché siamo ancora qui a discutere di Renzi, destra, sinistra, tra Bersani, Berlusconi, e voglio dire, non so cosa ci devono fare ancora per capire che ci stanno facendo del male. Ma quindi lei appoggia questo modo di fare opposizione degli ultimi due giorni? Io, se fosse per me, farei anche peggio. Va bene, peggio. Non voglio neanche chiederglielo cos'è il peggio. La ringrazio, la saluto. Andrea dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Forza Milan, il giornalista e anche la squadra. Vabbè, la squadra sicuramente, dica. Niente, io ti ho chiamato perché ovviamente la politica si lamenta del fatto del metodi poco ortodossi del Movimento 5 Stelle, ma io credo che comunque, secondo me, è nata proprio dalla mancanza di politica, perché noi per anni Abbiamo assistito a una politica che apparentemente sembrava che facesse interesse dei cittadini, poi quando apriamo i giornali, ascoltiamo telegiornali, sentiamo solo corruzione, sentiamo solo disinteressamento di quelli che sono i fabbisogni dei cittadini. Mm-hmm. Ovviamente io ieri ascoltavo tra l'altro anche un vostro programma, La Zanzara, con Cruciani, e parlava, adesso non mi viene in mente il nome, Mughini, del fatto che sono, magari non sono molto, come dicevo prima, ortodossi, hanno del modo definirli ortodossi effettivamente non sono assolutamente ortodossi, però io credo che loro rappresentino un po' il popolo comune, cioè è chiaro che una persona plurilaureata avrà un modo di esprimersi in maniera diversa. Dice, no, lei non ne fa una colpa al fatto di non essere io è chiaro che, attenzione, la violenza non ho il modo di manifestare in maniera così accesa non è condivisibile, però io credo anche che la politica, se loro avessero fatto gli interessi degli italiani, io penso che non ci sarebbe bisogno del Movimento 5 Stelle, no, diciamo, ecco, traduciamola così, se posso dire. Secondo lei, Andrea, il Movimento 5 Stelle è anche il prodotto dell'incapacità della politica in questi 20 anni di mettere mano alle soluzioni che andavano prese. Io vi ringrazio, l'onorevole Maria Stella Bianchi del Partito Democratico, Marzio Breda del Corriere della Sera, che oggi ovviamente racconta delle reazioni di Napolitano sulla richiesta di impeachment e anche delle preoccupazioni per il clima certamente poco ortodosso o di violenza che si è visto in questi 2 giorni all'interno di un'istituzione come il Parlamento. Oggi tra l'altro anche Laura Boldrini, presidente della Camera, proprio sul Corriere della Sera dice: non tollererò più questo tipo di violenze. Speriamo vada un po' meglio, che c'è bisogno un po' di, come dire, di parlare in maniera sana, a cominciare dal Parlamento. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, potete seguire il profilo Twitter mio, Alino Milan, e grazie a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Alessandro Marcotulli in redazione, con Carmelo Lauricella in regia. A lunedì! Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.